Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient, il y avait le vague de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu. Questa mattina trasmissione dedicata soprattutto agli automobilisti. Velocissima premessa, non è un'istigazione a violare la legge, non è una offerta di escamotage per fare qualcosa che non rientri nei limiti della legalità. Semplicemente, visto che esistono degli strumenti per riuscire in qualche maniera a tutelarsi da contravvenzioni, da multe, da importanti e a volte anche onerose sanzioni che ci vengono inflitte nel corso della nostra quotidiana fatica di automobilisti, perché non approfittarne? 800 24 00 24. Caro Nicoletti, sono Sabina, chiamo da Roma e ti volevo dire che ieri mi sono beccata una contravvenzione per sosta alla fermata dell'autobus, ovviamente sosta dove non erano segnate le righe, eccetera, eccetera, e con la decurtazione di 2 punti della patente. Baci. Questo è un messaggio di un'ascoltatrice, ma me ne arrivano molti. Io normalmente non è che abbia una vocazione così spiccata per fare trasmissioni di servizio, però mi sono incuriosito perché ci sono varie voci di corridoio, amici ben informati, consiglieri da pompa di benzina che mi dicono sempre: guarda, questa multa non te la dovevano fare, non era legale che te la facessero, non c'erano le condizioni per cui tu venissi sanzionato, fai ricorso e vedrai che te la tolgono. 800 24 00 24, quante volte l'hanno detto a voi, quante volte l'avete fatto, cosa ne sapete sulla possibilità di non pagare le multe quando la legge permette di non pagarla. Ecco a voi il nuovo autovelox che secca tutta Italia immediatamente 30 centimetri prima del limite di 60 km/h, quindi uno da 60 km/h sì e no a 15 metri per rallentare. Adesso sicuramente qualche sfigato passa, gli faranno la multa, io voglio farvelo vedere. Ecco il malcapitato che passa, foto, eccone un altro. Questo piano piano è stato graziato a Fiumicino all'aeroporto con un altro, questo gliela fanno sicuro, foto, vai vai, ora stiamo un altro pochetto, ve ne faccio vedere un'altra. È uno sport talmente affascinante, quello di osservare le povere vittime dell'autovelox, che probabilmente è collocato in maniera per cui con tutta la buona volontà, con tutta l'osservanza e l'ottemperanza, non si vede la segnalazione, quindi comunque si finisce in bocca della foto che ci inchioderà a una pesante sanzione, che questo ragazzo deciso di immortalare su YouTube la propria osservazione quotidiana. Si è messo vicino all'autovelox e guarda tutti quelli che non vedendo la segnalazione che ci dovrebbe essere finiscono in bocca all'autovelox, e se li conta è come se fosse una tricotese sotto la ghigliottina che guarda felice le teste cadere una dietro l'altra. 800 24 00 24. Ma che siete venuti a fare? Oh dai, facci vedere quando fa la prima multa. Ma che dici? Adesso anni che aspettiamo sto momento, dacci sta soddisfazione. Andiamo, sono in servizio, non mi mettete in imbarazzo. Ma che sei emozionato? Ma che emozionato? Mare che trema. Andatevene via, andate via. Finché hai fatto una multa e poi ce ne andiamo. Circolate, non mi create l'ingorgo voi che siete miei parenti. Non mi costringete a punirvi. Buongiorno, lei non ha visto il divieto di sosta? E lei non ha visto che il divieto è dalle ore 8 alle ore 14? Poi là. Lei c'è il triangolo? Sì. Eccolo. Favorisca la patente, per favore. Qua è la macchietta stranota di Alberto Sordi, ma non potevo non citarla, in cui veste la divisa del vigile per la prima volta, questa sorta di illimitato senso del potere e quindi applica la legge, l'applicherà poi in maniera così pedissoca e così puntigliosa da fare multe al sindaco Vittorio De Sica, ma cogliendolo proprio in transumanza di clandestinità amorosa e quindi creando e complicando le vicende. In questo caso il primo giorno con la famiglia nascosta che lo guarda fare le prime multe cerca di contestare qualche infrazione, ma cade male, purtroppo la sua puntigliosità urta con degli automobilisti che sono perfettamente in regola. Daniele, buongiorno. Buongiorno a lei. Dunque, volevo segnalarle questo relativamente ai ricorsi presentati presso il giudice di pace. Io tempo fa, 2 anni fa, ricevetti una segnalazione per una contravvenzione per la quale poi feci ricorso, poiché ce n'erano le condizioni, e vinsi il ricorso presso il giudice di pace. Cosa succede però? Succede che a questo punto i comuni, nella fattispecie il comune di Parma, impugnano tutte le sentenze del giudice di pace e ricorrono in appello. Ora, poiché ricorrere in appello comporta essere assistiti da un avvocato, è necessaria l'assistenza tecnica e quant'altro, è evidente a questo punto che per una multa da 250 o 300 euro, ancorché con la decurtazione di 2, 3, 4, 5 o 6 punti, diventa qualcosa di... Ma d'altronde non può impedire l'amministrazione del loro diritto di ricorrere in appello. È chiaro che lo fanno per scoraggiare, è un braccio di ferro. È un loro diritto, ma lo fanno, voglio dire, lo fanno indiscriminatamente. È una lotta alla consunzione, esattamente ottengono lo scopo che lei dice. Uno dice, ma loro tanto ricorrono sempre in appello, non vado dal giudice di pace. Esattamente, perché se io ricorro, se poi avessi accettato, voglio dire, se avessi accettato il loro ricorso in appello, avrei dovuto spendere almeno 1000 euro di avvocato. E quindi, come a meno che lei non sia di quelli, dice no, voglio averla vinta comunque, costi quel che costi, uno lascia perdere. Ricorda la parabola di quel marito che pur di non... Sì, certo, si troncò i gioielli di famiglia, è chiaro. Ognuno passa il suo tempo nella maniera che più lo esalta. Comunque questo mi fa capire, la sua telefonata mi fa capire subito il senso della disputa. In effetti è un braccio di ferro continuo, è una lotta senza speranza, o perlomeno è una lotta animata da qualcosa che va oltre il semplice aver trasgredito una regola o il semplice impugnare il proprio diritto all'osservanza della legge anche da chi poi le regole dovrebbe farle. Vi presento l'ospite che abbiamo al telefono, che è la persona chiave di questa mattina. Avvocato Emilio Ponticello, buongiorno. Buongiorno. L'avvocato Ponticello è una sorta di messia salvatore per tanti automobilisti, perché mi sembra che è già la terza edizione aggiornata del suo libro Io non pago, come fare ricorso contro le multe da soli e in pochi minuti. Edizione Fazzi, terza edizione aggiornata, in uscita il 27 maggio. Un gran successo questo libro. Eh sì, per fortuna sì, ma io ne ho fatte anche altre di natura professionale, altrettanto hanno avuto un gran successo, sempre sul tema delle contravvenzioni. Ecco, vediamo di stabilire un principio. Lei è un avvocato, naturalmente fa il suo mestiere, giustamente. Chi viene da lei dice io uso tutti gli strumenti che la legge, il diritto, le norme, le regole, le sentenze mettono a disposizione per evitare di farti pagare la multa. Il suo libro c'ha una premessa che mi sembra doveroso ribadire in questo momento: non è un libro che istiga a violare le leggi. Esatto, e la questione delle sanzioni amministrative oramai supera di gran parte l'effetto che si proponeva all'inizio, cioè quello di determinare un rispetto delle norme della circolazione. Cioè non è più un deterrente, ma sembra di capire, ma lo che dico interpretando, motivo di cassa per i comuni, e di conseguenza ha perso il suo impatto originario e causale, come dicono i giuristi, cioè in connessione alla causa che ne determinava l'attuazione. Questo è un po' quello che dicono tutti gli automobilisti, cioè che ormai le multe fa parte delle entrate importanti di un comune, quindi sono state vicende che poi la cronaca ci ha consegnato, i semafori che non fa in tempo a passare perché l'arancione dura un nanosecondo, gli autovelox nascosti quando non possono essere nascosti e altre cose del genere. A lei risultano tutte queste cose? Sì, risultano, ed anche in gran misura. La stampa ne ha parlato abbastanza, per esempio gli autovelox nascosto o addirittura i semafori tarati in maniera non conforme a quanto prevede la legge. E la legge cosa dice in questo caso? Perché quello del semaforo è uno dei problemi in tutti i piccoli comuni. È un problema importante, per i comuni, cioè che deve essere dato all'automobilista il tempo di fermare la marcia in relazione alla velocità consentita in quella determinata strada, poiché questa velocità cambia ovviamente. Se è un semaforo fuori dei centri abitati o un semaforo nei centri abitati, sono 50 km e in questo caso è stabilito che deve essere tarato sui 3-5 secondi. E ci sono state sentenze che hanno condannato i comuni per questo? Sì, ce ne sono state molte, anche ci sono state addirittura dei sequestri penali di semafori, di impianti semaforici che non rispettavano queste norme. Lei pensi, lo dico senza citare la località, che io non vado più in vacanza in un posto dove andavo molto volentieri, ero stancato tutti gli anni, verso settembre-ottobre a trovarmi delle multe fantacatastrofiche. Io non prendo mai una multa durante l'anno, possibile che in quei 15 giorni all'anno mi arrivano 3-4 multe, quindi non ci vado più, non volendo più discutere non ci vado più. Ma evidentemente rientrava nelle fattispecie che ci diceva l'avvocato Ponticello. Andiamo avanti, perché ha citato un ascoltatore appunto le sentenze e il fatto di ricorrere al giudice di pace. Sono assurde, tante e in aumento in tutta Italia, a sud come a nord. È sempre più difficile fare il nostro lavoro, perché i ricorsi sono assolutamente tanti. Molti verbali sono stati poi annullati da sentenze di alcuni giudici di pace. Non parliamo di cavilli o casi dubbi, perché certo anche gli agenti sbagliano, ma di sentenze come l'autovelox non funziona con la bora, o non vede le macchine in movimento, oppure il cittadino può superare i limiti in galleria perché è claustrofobico, o perché corre dalla moglie malata e va creduto sulla parola senza certificato medico, perché il cittadino non dice bugie. L'appello costa tempo e soldi e la validità dei controlli è data dalla certezza della sanzione e dalla velocità nell'applicarla. Non si farebbe prima non emettere sentenze così? Il giudice di pace non è un mostro, il quale, a differenza di tutti gli altri cittadini italiani che sono tutti furbi, non so cose del genere. Ecco, avvocato Emilio Ponticello, questo era un servizio di Report che parla di ricorsi fatti contro le multe, che a volte è il limite dell'assurdo, uno soffre di claustrofobia quindi doveva correre dentro il tunnel, via dicendo. Eh sì, ma sono casi limite, cioè casi che sono giustificati dalla forza maggiore, cioè quindi c'è una giustificazione obiettiva. Se uno fa una violazione in funzione della causa di giustificazione di una patologia, di un esatto, ma non è affatto vero. A me non mi risulta che siano state emesse sentenze. I giudici sono abbastanza puntigliosi e severi, anzi sono in gran parte a favore della pubblica amministrazione. Per considerare legittimo il caso fortuito, la forza maggiore, ritengono che sia necessaria, e giustamente, l'acquisizione di documentazione medica. Invece mi scrivono alcuni ascoltatori che in realtà i giudici pace tendono a dar ragione ai multati, perché dovrebbe passare l'idea che se fai ricorso ti va bene, quindi il giudice di pace, che fa parte del suo lavoro, più ne fai meglio è per lui. È abbastanza equilibrato, di solito, per quanto mi riguarda, è abbastanza equilibrato, nel senso che la pubblica amministrazione potrebbe fare pure a meno di difendersi nel giudizio, perché il giudice rappresenta sempre la pubblica amministrazione in sostanza, anche se è super partes e cerca di fare in maniera equilibrata le sue decisioni, ad esempio quelle che si è accennato nel servizio mandato in onda prima, che l'autovelox, se è nascosto, non è funzionale al compito che si prefigge, cioè quello di prevenire l'infrazione dell'automobilista, non di sanzionare. Il problema della circolazione stradale è soprattutto questo: mentre la multa arriva in un momento successivo e trascura completamente il fatto prevenzione, viceversa l'organizzazione del servizio deve essere fatta in funzione della previsione di evitare la violazione da parte dell'automobilista. Ecco perché la legge vuole che i segnali siano ben visibili, siano ben tracciate le linee orizzontali, verticali, siano posti in maniera tale che l'automobilista li debba poter avvedere in modo che possa adeguare la sua condotta in rapporto alla segnaletica stessa. Quindi non si possono acquattare con autocivetta, con l'autovelox, certo, perché è contro la legge. Però lo fanno, ma adesso ci sono state circolari, ci sono state numerose sentenze addirittura della Cassazione che hanno stabilito che gli autovelox devono essere posti ad una distanza tale che l'automobilista possa arrestare la marcia in funzione degli stessi, quindi fuori dei centri abitati sono 800 metri, mentre in città varia la velocità a seconda del tipo varia la distanza in rapporto ai tipi di apparecchi che sono usati, insomma, quindi in questo senso è assicurata la funzione primaria della segnaletica stradale, quella di prevenire e consentire un comportamento uniforme da parte degli automobilisti. Sentiamo qualche ascoltatore. Carlo dice una cosa interessante. Carlo, buongiorno. Buongiorno, dottore. Sì. Io vorrei solo fare una domanda, cioè una mia, ma soprattutto io sono un autodidatta, preciso prima, faccio l'autoascoltatore, sto in mezzo alla strada, ne vedo dei cotte e dei crude e non sto qui a elencarle perché già le avete elencate voi. Però all'avvocato Ponticelli vorrei chiederle una cosa, ma è possibile che qualunque esso sia il comune, di qualunque sia il colore politico, che si possa mettere in previsione di bilancio le multe per l'anno corrente? Ma dico, ma giurisdizionalmente, non lo so, non c'è una corte dei conti che faccia un ricorso dell'associazione. Lei lo trova scandaloso, che lei dice. Ma è scandaloso, ma è proprio vergognoso. Dovrebbe essere una voce, uno dovrebbe augurarsi che nessuna multa venga fatta perché tutti sono andati giusti. Anche perché se no qui siamo arrivati in Italia che uno Stato si mantiene, o i piccoli comuni, o che, diciamo lo Stato in generale, non più solo con le tasse che pagano gente onesta come noi che lavora, sì. Ma si mantiene su cosa? Sui giochi d'azzardo, sulle macchinette che sta portando alla rovina il 30% dei cassa integrati? Beh, questo è un altro problema, non mettiamo troppa carne al fuoco. Se il cassa integrato gioca con le macchinette. Ma un previsione di bilancio si mette. Sentiamo l'avvocato Ponticello, scandalizza tanto l'ascoltatore. La previsione di bilancio è prevista addirittura dal codice della strada e dalla legge, quindi perché deve dire il comune non può usare i fondi che trae dalle sanzioni amministrative per fini diversi da quelli che sono connessi alle finalità per cui le contravenzioni vengono istituite. Quindi di conseguenza a me pare legittimo. Deve mettercelo per forza. Però deve mettere per forza perché, dato una volta costituiva una forma di bilancio assolutamente insignificante, ma poi con l'aumento delle multe, se noi pensiamo che grossi comuni come Roma, per esempio, superano i 3 milioni di multe annuo, quindi conseguentemente almeno una multa al cittadino, e la proporzione è anche maggiore in altri comuni. Diciamo. Però io posso capire quello che dice l'ascoltatore, dice se mette in previsione bilancio, se già si sa che arriveranno tanti soldi, non se ne uscirà mai, nessun comune farà un passo indietro facendo una politica più mirata a quello che dice appunto lei, avvocato Ponticello, cioè di studiare una maniera per prevenire l'infrazione stradale, segnalare, creare un deterrente, diranno 3 milioni ci entrano e 3 milioni ci devono entrare, quindi per forza giù con i semafori veloci, giù con gli autovelox nascosti. Beh no, ma i bilanci sono preventivi e consuntivi di solito, quindi di conseguenza il bilancio preventivo si fa in rapporto agli introiti che ci sono stati l'anno scorso. Ma chi mai farà una politica per limitare un'entrata così importante? Questo sicuramente è giusto, però dipende dalle politiche che fanno i comuni. Del resto, se le contravvenzioni vengono usate per riparare le strade, è già un motivo importante, insomma, quindi vengono usati in maniera Sì, è importante, legittima. Però secondo me a priori è contare sul fatto che comunque noi riusciremo a fregare tanta gente per riparare le strade è qualcosa che dal punto di vista poi del cittadino e di chi sta in automobile non è una cosa che faccia tanto piacere, sapendo che comunque ci saranno sempre appostati gli attrezzi che serviranno per fregarmi, perché alla fine dovranno far conto su quel tipo di entrata. Ecco, io penso sia più una sorta di pregiudizio emotivo quello che ha espresso il nostro amico camionista. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Mi dia la patente. Ma sta a scherzare? Guardi che se c'è uno che scherza, questo è lei, e scherza male. Articolo 104 del codice della strada. E vabbè, io lo dico a lui. Sì, dica a me, che succede? È lei il proprietario della macchina? Sì, ma non lo riconosce, è il signor sindaco. Il sindaco in persona, onoratissimo. Agli ordini, signor sindaco. Vigile Francesco Locascio. Bene, Locascio, stai comodo. Grazie. Prego, signora. Thank you. Signora. Up to you. Prego. Thank you. Che fa, signor sindaco, se ne va? Che faccio? Me ne vado, certo. No, le volevo dire, le mando la multa o concilio? Ma che concilio? Che cosa concilio? E va bene, allora se vuole le faccio il verbale e lei può pagare con comodo entro 15 giorni. Ma scherzo? What's he saying? È un vigile, dice che sono in contravvenzione. Bene, eccellente, dimostrazione di grande civismo. Ah sì? Anche da noi naturalmente è così. Anch'io vengo multato da miei vigili. Anzi, con me sono molto più severi. Anche con me, sì, anche qui è così sempre. Bravo, bravo, Locaro. La vecchia gag del vigile che multa il sindaco si ripercuote in questo sketch con Franco Franchi che fa la multa al sindaco, che rimane stupito e perplesso, ma accompagnava una delegazione straniera che naturalmente vengono da stati civilissimi in cui i sindaci è naturale che ricevano multe ai loro vigili e non può fare a meno che promuoverlo. Questo nella realtà accade molto raramente. Vorrei conoscere un vigile che ha fatto la multa al suo sindaco, se non in piccoli paesi dove le faide familiari di quartiere, di condominio prevalicano ogni ruolo. Beh, questa mattina stiamo parlando delle contravvenzioni, delle multe, della guerra imperterrita tra automobilisti e amministrazioni. Quello che viene fuori è che le amministrazioni usano lo strumento, la contravvenzione, non più come deterrente per consigliare e portare l'automobilista a un corretto comportamento, osservanza alle regole, ma ormai è un'importante voce di bilancio. Quindi la lotta è senza quartiere, quindi sono dei guerrieri ninja che sono nascosti, anfrattati nelle pieghe delle città, dei paesi, dei villaggi e dei piccoli, grandi, medi comuni, per riuscire a riportare alle cifre nelle previsioni di bilancio con multe, contravvenzioni, contestazioni, autovelox e via dicendo. Abbiamo moltissimi ascoltatori, ma prima di tutto vorrei far parlare, perché si è fermato appositamente per parlare con noi, Roberto Roberti. Roberti, buongiorno. Buongiorno a lei e al nostro pubblico. Ecco, lei si è prudentemente fermato perché sta alla guida. Lei è responsabile della telematica accessori della Magneti Marelli, che distribuisce, a questo nome vedrò aprirsi un sorriso nei nostri ascoltatori, il Coyote. Il Coyote, lo sapete tutti cos'è, è un rivelatore di autovelox. Innanzitutto questo Coyote, visto che lo pubblicizzate, lo mettete in vendita, è uno strumento perfettamente legale. Assolutamente sì, ho ascoltato prima le parole dell'avvocato Ponticello che diceva giustamente che gli strumenti di controllo come ad esempio gli autovelox o le telecamere dei semafori devono essere indicati in maniera chiara un chilometro, 500 metri prima rispetto alla loro posizione. Devo avere il tempo di andare alla velocità che impone il codice in quel tratto, quindi devo poter rallentare, se no non vale, questo è il senso, no? Esatto, e il Coyote non è altro che uno strumento elettronico che permette di avere questa informazione all'interno della propria vettura in maniera automatica, senza dover fare nulla e essendo avvisati nel momento in cui si superano i limiti di velocità. Ecco, ma qual è la differenza rispetto a tanti navigatori satellitari, no? Uno che mi dà lo stesso servizio, mi segnala quando vado troppo veloce, quando saprà arrivare il tonton. Questo permette una sorta di interazione. Io se vedo un autovelox nascosto posso segnalarlo con il mio Coyote al collega automobilista che passerà lì a poco, qualcosa del genere. Esatto, ci sono due grandi differenze tra il Coyote e qualsiasi altro apparecchio simile. La prima è quella che il Coyote, essendo perennemente connesso, riceve giornalmente tutti gli aggiornamenti, cioè tutti i nuovi autovelox che possono essere piazzati. Ma questo a tempo reale, metta caso, io mi accorgo c'è un autovelox un po' camuffato e lo segnalo con il mio Coyote. Chi sta a 2 chilometri dietro di me, già arriva la segnalazione sul suo Coyote? Certamente sì, la segnalazione passa attraverso un server che la, la riceve, l'analizza e la ridistribuisce a tutti gli automobilisti che stanno intorno a me. Ecco, ma qual è la differenza con la lampeggiata di fari, che in realtà se uno la fa ti segano subito, che è questa sorta di patto di solidarietà tra automobilisti? Ci scanneremo tutti l'uno con l'altro, però non so perché ci si sente improvvisamente corroborati da un senso di fratellanza e di amore quando si vede uno che ti lampeggia con i fari e ti segnala l'autovelox o la pattuglia. Beh, la grande differenza è che con il coyote si può esprimere la fratellanza in maniera legale. Quindi... è legale farlo, sì. Esatto, quindi i fari non è consentito dal codice della strada, e poi facendo i fari io avviserei solo qualcuno che viene di fronte a me, non posso avvisare qualcuno che è dietro me. E quindi con i coyote invece a 360 gradi io posso avvertire tutti. Esatto, io posso avvertire tutti a 360 gradi in sicurezza. Però ne girano tante di macchinette non legali del tipo, come funzionano quelle, diciamo, che non si potrebbero usare? Allora, quelle non legali sono quelle che sostanzialmente attraverso dei raggi infrarossi percepiscono la presenza di un autovelox e a volte ne inibiscono anche il funzionamento. Invece il coyote è un localizzatore. Ah, dei mascheratori di caratteristiche dell'automobile, non ti fanno fare la fotografia? Non ti fanno fare la fotografia, sì, in qualche modo o mascherano l'automobile o disturbano l'apparecchio di rilevazione della velocità, cioè, e questi sono illegali. Esiste veramente l'apparecchio che, secondo una leggenda metropolitana, una fantasia, lo stesso scopo sarebbe ottenuto mettendo dei CD nel vetro posteriore dell'automobile, che nessuno ci ha mai creduto, ma tutti li hanno messi. Sì, esistono questi apparecchi, tra l'altro costano molto e sono poco affidabili e sono illegali, mentre il coyote permette di viaggiare in sicurezza, di avere tutte le informazioni sott'occhio in maniera sicura e legale. Grazie Roberto Roberti. Ricordo all'avvocato Emilio Ponticello, che è autore di Io non pago, come fare ricorso contro le multe da soli in pochi minuti, Fazze Editore, che è alla terza edizione aggiornata. Avvocato Ponticello, cominciamo a stabilire il vademecum o la procedura di pronto intervento quando si riceve una multa, perché nel suo libro lo spiega chiaramente, prima ancora di strapparsi i capelli, sono alcune operazioni precise e immediate da fare. Quali sono? La prima cosa è vedere la data di notifica e quindi il secondo decidere se la multa è giusta, bisogna pagarla. Se la multa presenta dei lati che non appaiono non corretti, bisogna impugnarla. E quali potrebbero essere i lati? Dunque, i lati che oscuri l'automobilista ha di solito sono solo riscontri formali, quindi la possibilità di successo dell'automobilista è di solito sulla forma. Ad esempio, la massima parte dei verbali viene notificata in forma elettronica, però non contengono l'indicazione che è copia conforme all'originale, che è una cosa banale, però questo potrebbe annullare il verbale, quindi in un certo senso è un errore marchiano che molti comuni fanno, non tutti, ma molti comuni fanno. Ma è vero che dipende anche il numero degli operatori, i vigili o poliziotti che fanno la multa, se sono soltanto due o se uno soltanto cambia molto? No, questa è un'altra leggenda. Questo è l'aspetto leggendario, perché valeva soltanto in precedenza, quando si entrava nella organizzazione del servizio della pubblica amministrazione, che invece è un servizio che viene organizzato in maniera autonoma. Per le contravvenzioni che vengono fatte a distanza, per esempio quando c'è un semaforo elettronico in un centro abitato ci deve essere un vigile, non necessariamente più di uno. Perché questo? Perché la legge prevede che se di solito negli incroci stradali che sono nei centri abitati è possibile l'ingorgo, e nell'ingorgo l'automobilista deve tenere un duplice comportamento. Una volta che è passato col semaforo in regola, ad esempio, rimane a metà, succede spesso, rimane a metà, e allora è suo obbligo di sgomberare l'incrocio, quindi non può essere multato perché è passato, però può essere multato se, nonostante la fila, ha continuato a proseguire, mentre doveva arrestarsi anche se il semaforo. Quell'orribile sfida tra file, siete passati voi, adesso ripassiamo noi. Quando on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt. Lo immaginavo questa mattina. Si è arroventato l'orecchio Fabrizio Intonti e il dito indice a Valerio Rocchetti. Davide, buongiorno. Buongiorno. Vediamo se riesco a dare voce a più ascoltatori possibile, ce ne sono centinaia che stanno lì, vogliono risposta all'avvocato Ponticello. Davide. Sì, le porto la mia esperienza. Io sono riuscito con un ricorso a vincere nella mia città una multa per non aver messo le cinture di sicurezza, che mi sembrava impossibile vincere, invece sono riuscito a documentarle tramite un giudice a riuscire. Ma poi, cosa diciamo ha impugnato? Un suo stato di salute? No, un dato oggettivo, il fatto che, a parte essere in violazione agli articoli 3 e 13 della Costituzione, non è vero che la cintura di sicurezza sempre salva la vita, ma ho portato decine e decine di articoli di giornale in cui ho dimostrato che se l'automobilista non avesse avuto la cintura di sicurezza forse si sarebbe salvato la vita. Ma è perché ideologicamente contrario alla cintura di sicurezza? Io sono fisiologicamente contrario perché ho visto per esperienza personale persone annegare nei canali qui vicino proprio perché non si riuscivano a staccare questi meccanismi. Ma perché non si portano l'apposito coltellino che costa pochi euro, che taglia la cintura e rompe perché il vetro? Di panico, io non ho un grosso problema da quel punto di vista, però in un momento di panico bisogna tenere conto della situazione personale dell'individuo che non ha la freddezza necessaria. Io non discuto gli atteggiamenti personali e le opinioni, però onestamente nel canale è un po' più raro di finirci rispetto ai tamponamenti. A me mi hanno tamponato spesse volte. In cui praticamente l'80% delle strade è costeggiata da canali. Ah beh, lei il canale è una cosa che lo spaventa. Esatto. L'assurdo è che ho vinto questa che sembrava impossibile vincere e ne ho persa una a Verbagno Cuso Ossola proprio sugli autovelox, dimostrando con 12 pagine di argomentazione come fosse sbagliati i cartelli perché non erano norme con un articolo di attuazione del codice della strada che prevede che il cartello... Ho capito, adesso la devo segare, c'ho poco tempo, ho capito che lei dedica molto tempo della sua vita a lobby di contestare le multe e questo è lecito farlo. Roberto. Due esperienze, buona giornata, grazie. Buona giornata. La prima a Pozzoleone, un paesino di forse 30 case in provincia di Vicenza, 11 di sera, vigili con l'autovelox posizionati in un'area privata di un mobilificio nascosti da piante di oleandro, mi hanno beccato a 78 km l'ora. Io la mattina dopo sono andato dal sindaco, ho raccontato come stavano le cose, ho detto io faccio l'agente di commercio, vi pago la multa ma non levatemi i punti, vi assicuro che non c'era, solo allevamenti di vacche ci sono in giro. E cosa è successo? Il sindaco mi ha detto guardi, io le do un consiglio, se posso, paghi la multa e va bene così. Prima. L'ha graziato. E l'ho pagata. E la seconda volta? Andiamo al punto? La seconda volta, dietro dei cassonetti di immondizie, ahimè, c'erano due signori rannicchiati, uno in divisa, uno in no, in provincia di... Inzuppati nel pattume, mimetizzati sì, nel pattume. E avevano questo radar e anche lì per qualche... Però è molto interessante quanto nella stessa area geografica ci siano queste improvvise oscillazioni del gusto, dell'estetica dell'appostamento, gli uni nascosti dietro piante di oleandri fioriti, che è una cosa molto romantica anche se la pianta è velenosa, e gli altri inzuppati dentro il pattume pur di riuscire a fregare l'automobilista. Raffaella. Buongiorno, dopo i racconti fatti dai due signori di prima mi vergogno quasi a dire che io non ho preso multe per eccesso di velocità perché con la mia vecchia 500 non le posso prendere. Andava troppo piano? No, non vado troppo piano, però non ho mai superato i limiti di velocità. E per cosa l'hanno multata? Mi hanno multato a Roma perché stavo cercando parcheggio a Viale Tirreno. A Viale Tirreno lei sa benissimo che la corsia preferenziale è al centro della strada. Sì, sono tre macchine in quintupla fila. Per superare una macchina in terza fila ho invaso la corsia preferenziale. Con la 500? Con la 500. L'ho invasa per due volte a distanza di 20 minuti l'una dall'altra. E l'hanno segata con la multa? Perfetto, tutte e due le volte. Due pattuglie diverse, due multe di 38 euro ciascuna. Ma a Roma adesso, per fare ricorso, devi pagare un obolo di 38 euro. E quindi 38 euro, il 38 è un numero che le consiglio di giocare all'otto. Perfetto. Perché vedo che assegue la sua vita. Non chiudiamo... l'ho giocato, però ho pagato le due multe. Michele, Michele, l'ultimo, poi sentiamo l'avvocato Ponticello, si ha preso appunti. Michele. Sì, buongiorno Nicoletti. Senta, lei è il paradosso dei paradossi, le hanno rubato la macchina. Sì, le hanno rubato la macchina, 30 giorni dopo c'è stato il verbale di riconsegna dei carabinieri, nel frattempo hanno, i ladri hanno preso una multa per eccesso di velocità, ho fatto ricorso al giudice di pace di Maranello. E ha pagato. Quando è arrivata la risposta, ho dato per scontato che avesse accettato ovviamente l'annullamento della multa. Invece? Ho scoperto dopo che invece mi aveva dato torto e ho pagato il doppio della multa. Questo è... Come si dice, cornuto e ammazziato. Allora, avvocato Ponticello, tutti questi casi, il primo caso dei vigili appostati l'abbiamo già detto. Sì, primo e secondo in sostanza si equivalgono. Sì. Però nel secondo caso potrebbe essere che non siano vigili ma siano ausiliari, cioè quelli che sono autorizzati perché in vicinanza dei cassonetti. E possono quelli appostarsi? No, loro quelli non solo non possono appostarsi, ma non possono neppure fare la multa a cassonetto se non in determinate circostanze e con determinate qualifiche. Ne sa una più del diavolo, avvocato, bisognerebbe leggere con attenzione il suo... E un qualifiche. Per quanto riguarda la signora, per esempio, ha fatto male a non fare opposizione. Perché lì è gioco forza. Allora, queste grandi arterie interne sono veramente piene di macchine, camion parcheggiati. La signora si trovava nel caso fortuito per cui l'ostruzione della strada le imponeva di attraversare nella maniera corretta. Ma come fa a dimostrarlo però questo? Questo uno dovrebbe fermarsi a fare la fotografia dei luoghi, insomma, il che sarebbe impossibile perché non si va avanti, però si può dedurre. Poiché Ha detto una cosa che mi interessa. Se io scendo con il mio cellulare, tutti lo abbiamo in tasca, e faccio la foto della situazione, è un elemento di prova in sede giudizio? Sì, è un esimento, perché la signora non aveva la volontà di fare un'infrazione, ma aveva la necessità di superare un ostacolo che si era parato alla circolazione e che non dipendeva dalla sua volontà. E l'ultimo ascoltatore, poverino, quello che ha pagato la multa del ladro? No, ma quella del ladro ha sbagliato il giudice, però non so come ha fatto, perché lui doveva allegare la questione perché il proprietario del veicolo è solidale con colui che ha fatto l'infrazione. La solidarietà in questo caso però si arresta. Cade, mica un parente, un ladro. Dipende dalla sua volontà la circolazione. Quando la circolazione del veicolo non dipende dalla volontà del proprietario, il proprietario non risponde della multa. Grazie avvocato Ponticello, ricordiamo che Come far ricorso contro le multe da soli in pochi minuti, Io non pago, è il libro edito da Fazio Editore, la terza edizione tra poco è in libreria, quindi compratevelo se volete avere altre informazioni. Ne abbiamo già date tante questa mattina. Grazie Fabrizio Intonti e Valerio Rocchetti, a domani. Alors tous deux on est reparti dans tourbillon la vie, on a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.